Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sei una grandissima zoppa, lui è un cornuto. Bravo. È vero che sei la mia zoppa? Mi stai facendo un video? Sì. Bravo. È vero che sei la mia zoppa? Sì, sono una zoppa. Ti piace come te lo succhia? Sì, un sacco. Vai. Ma lui che cosa poteva essere accanto a me? Un cornuto. Sì, solo un cornuto ti potevi prendere. Bravo. Per quanto sei zoppa. Bravo. Cioè, solo un cornuto. Tu, secondo me, quando l'hai conosciuta la prima volta, l'hai visto e detto, ah, questo c'ha proprio la faccia del cornuto. E ti sei fidanzata con lui. Ne sono convinto. Bravo. Ne sono convinto. Sbattimi il cazzo in faccia. Sì. Ti piace. Oramai è stato sdoganato nella sua crudezza questo video amatoriale, perché sta circolando in rete e ha più diffusione dell'ultimo discorso fatto alla Camera, oppure da un discorso fondamentale di un uomo politico su una ricorrenza di carattere nazionale. La sintesi, il mantra che lo contraddistingue è: stai facendo un video? Bravo! Bravo con l'H in fondo. Di cosa si tratta? Si tratta di qualcosa che probabilmente non è a conoscenza della maggior parte del pubblico attempato, ma ne sanno tutto comunque le giovani generazioni, quelle che smanettano tutti i giorni sul loro smartphone. È un video che è diventato virale, significa che una cosa stupida, banale, senza nessun valore generale, diventa uno spaccato, un indicatore, un lettore sociologico dello stato delle cose rispetto alla nostra concezione generale nei confronti di alcuni eterni atteggiamenti, la passione, l'amore, l'amore contrastato, l'amore truffaldino, l'amore rapace, il tradimento. Sono due ragazzi, si vede soltanto lei, è una ragazza molto vistosa, bella, intenta in un atto sessuale promiscuo dentro un'automobile, si presuppone in un parcheggio di Napoli, almeno così è l'alone che gira attorno a questo video, a un suo amante. Lui la sta riprendendo con lo smartphone, lei se ne accorge e dice: stai facendo un video? Bravo! E iniziano una sorta di banale discorso di attizzamento amoroso, il cui protagonista è il legittimo fidanzato o marito, non si sa bene, della ragazza, che colui che usufruisce dei favori di questa ragazza dice: un grande cornuto, fa schifo, ma come fai a stare vicino a un uomo del genere? E lei sta al gioco, capisce che la cosa per lui è molto eccitante e insiste nel dire che lei è totalmente priva di volontà, schiava sessuale totale quest'uomo, ma alla base di tutto il muto e assente testimone è il legittimo uomo di questa donna, è il cornuto. Una cosa così stupida e banale passa su WhatsApp, comincia a circolare, nel giro di poche settimane diventa uno dei video più cliccati in tutta la rete, ma non soltanto dei video più cliccati, è nata proprio una vera e propria epica attorno a questa ragazza. Un'infinità di profili Facebook dedicati a lei, un'infinità di supposizioni, le televisioni addirittura vanno per strada e fanno interviste alle persone dicendo: ne sapete nulla di questa ragazza, cosa ne pensate? E qual è la formula di lettura dell'amore, della passione, dell'adulterio, del tradimento, della passione colta e interrotta all'improvviso, come noi siamo abituati a vedere e sapere dalla epica più lontana, Paolo e Francesca, che per il bacio galeotto poi lasciarono la pelle del loro gesto sconsiderato. In realtà hai fatto un video, bravo, vengono interrotti da un signore che bussa loro sul finestrino e dice: ragazzi, guardate che mi dispiace interrompervi, ma qui c'è gente che ci abita, quindi allontanatevi. Loro se ne vanno, ma questa interruzione li farà passare improvvisamente dall'anonimato più totale al centro di un'epica web. Avete visto il video porno di Tizio? E al di là delle solite disquisizioni sul discorso surreale avvenuto tra i due protagonisti della fellazio o delle divertentissime parodie, il nostro spirito sociologico ci spinge a verificare l'impatto sociale che ti ha avuto sui giovani. Cos'è? Stai facendo un video? Bravo. Stai facendo un video? Bravo. Sì, bravo. Classami sulla ciocia. Come? Stai facendo il video? Non mi raccomando, pigliamo pure però, Stavo facendo già il video. Se ti dico stai facendo un video, tu che mi rispondi? Dico di sì. Allora? Dici di sì, eh? Bravo. Mi sembra più una presa per il culo, sincero. Bravo. 800240024, qual è il vostro parere su questo fenomeno di viral marketing? Qualcuno dice, già mi stanno scrivendo ascoltatori molto informati, guardate, quella è una professionista, fa un video per promuovere se stessa, in realtà è una pornostar che ha trovato una maniera intelligente per lanciarsi come personaggio, finge di essere una persona qualsiasi, colta per caso da uno smartphone, ma in realtà è una maniera per promuovere poi una sua attività di broadcast molto molto reale, molto concreta, che gli darà sicuramente dei vantaggi. Altri dicono in realtà è una ragazza molto ingenua di cui si è approfittato un amante non certo scrupoloso e ha diffuso quello che era un loro gioco amoroso lecito finché rimane nella stretta cerchia del loro rapporto, ma una volta pubblicizzato improvvisamente tocca delle corde che non sono quelle della concupiscenza per la lussura, perché la rete ormai è piena di pornografia, sono qualcosa di molto particolare. Vorrei capire i motivi per cui questo video improvvisamente è diventato un fenomeno sociologico. Cos'è che sfiora, cos'è che tocca? Ciò che normalmente veniva consumato, è sempre stato consumato nella clandestinità, nell'oscuro, nel nascondimento, in fondo è un atto di passione fra due persone che non dovrebbero farlo, perché lei è comunque o sposata o fidanzata, fanno qualcosa contro qualcuno, ma questo diventa il momento, il motivo della massima diffusione di questo video. Cos'è cambiato nei rapporti delle persone per cui la massima diffusione di ciò che normalmente è sempre stato nascosto diventa un fenomeno di successo? Guardate che questa ragazza non avrebbe avuto un successo pari se avesse fatto un film, realmente un film pornografico, o fosse stata protagonista di uno dei tanti talent televisivi. Con nemmeno due minuti di stupido sospiro in cui non si vede assolutamente nulla, l'aspetto pruriginoso è dato più dalla descrizione, in realtà non si vede nulla, non si capisce nulla, è tutto molto soft, se non nel testo e se non nella situazione. 800240024, stai facendo un video, bravo, cosa significa? Ho solo un paio di domande. Stai facendo un video? E lui com'è? Bravo. Grande corno d'Italia. Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro? Sì, un sacco. Vorrei sapere di più su di lei. Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi. La guardo. Sei una grandissima zoccola e lui è un cornuto. Questa è una delle tante parodie e trasposizioni, hanno fatto canzoni, hanno fatto remix, hanno fatto scenette in cui uomini travestiti da donna interpretano la parte della ragazza, hai fatto un video bravo. Questo addirittura ha fatto un'operazione tecnicamente più raffinata, ha preso delle sequenze di 50 sfumature di grigio, l'ha trasformata in 50 sfumature di bravo, mettendo il doppiaggio hai fatto un video bravo nelle frasi salienti. Ora, se contrapponiamo le due produzioni, entrambe sono segnate dalla più totale inconsistenza, scelleratezza, ma guardate, 50 sfumature di grigio è diventato un fenomeno mondiale in cui non si racconta nulla se non un'operazione molto patinata e molto banale di rapporto di amore legato alla sottomissione di una donna nei confronti di un uomo molto ricco che in realtà in qualche maniera acquista i loro favori, e stai facendo un video bravo che altrettanto è una produzione di banale casalinga, casareccia, amatoriale, cialtrona, coatta, quanto volete, sequenza di sottomissione totale. Una donna capisce che per l'uomo in quel momento l'acume della passione è capire che la sta portando via un altro uomo, la sta rubando un altro uomo, e aumenta e intensifica l'oltraggio al grande assente, al legittimo tenutario della sua passione, perché è il fidanzato, perché è il marito, non si sa bene cosa. E la passione della rete è quello che in fondo emerge come senso comune. Inutile che le persone mi scrivano e mi danno del cretino, lei è intelligente, chi la guarda, chi la parla, mi faccia il piacere, sono fenomeni che non contano. No, sono fenomeni che hanno il loro valore, hanno il loro peso, sono fenomeni che comunque comunque coinvolgono molte più persone di quanto coinvolgano importanti questioni etiche, importanti questioni legate alla politica, legate all'attualità, e quindi giustamente di questo noi diamo attenzione. Questa settimana è girato un video di questa ragazza, sì. Il quale video era un video un po' hot, un po' hot, un video un po' spinto. Sì. Un po' porno. Noi che vogliamo fare? Vogliamo sapere il vostro parere su queste ragazze di oggi. Ma ormai si è cambiata l'epoca. Non possiamo dire che lei è cambiato il mondo, ha cambiato l'aria, tutto qua. Voi andate a fare questo mese che mi ha fatto il bagno, poi ci mi metto il cappotto, questo non voglio dire, arrivederci, cioè. Buona domenica. In questa Vox Populi la signora napoletana dice: cosa volete farci? Chiamate a commentare, hai fatto un video bravo, è cambiata l'epoca, è cambiato tutto, sono cambiate anche le stagioni che non sono più quelle di una volta, e quindi è normale che una ragazza che consuma un atto adulterino, un atto comunque di tradimento del legittimo fidanzato, abbia piacere e desiderio di essere filmata e di essere diffusa. Questo è l'amore, la passione truffaldina al tempo della social condivisione. Gianmarco, buongiorno. Buongiorno a lei. Semplicemente, essendo stati abituati per oltre 20 anni a un costume, non lo giudico moralmente, di un politico che in Italia ha dato un esempio chiarissimo di quello che può essere l'etica politica, morale, eccetera, come facciamo ancora oggi a stupirci di tutto ciò? Mi scusi. La ringrazio. Sì, ma non ho capito il senso, scusi, no, mi è sfuggita un passaggio. Lei cosa dice? Siamo stati abituati a 20 anni a cosa? Alla scostumatezza politica, e quindi accade questa cosa qua? Non tanto politica quanto di un certo ceto politico. Si chiamava Forza Italia, poi in altra maniera. Quindi la protagonista le hai fatto un video bravo, in qualche maniera è stata influenzata da una sorta di lassismo? No, non influenzata, non volevo arrivare a ciò. Viene legittimata attraverso esempi, quando si dice il pesce puzza dalla testa. Quindi c'è un clima tale di slabbramento dei costumi, dato da cosa? Lei sta naturalmente facendo riferimento a tutto il fatto del bunga bunga, le olgettine, queste cose qua, immagino che è stato l'episodio più legato. Sì, vabbè, perché c'è stata una... È un mio modesto parere. Sì, sì, no, ma è legittimo, non dico di no. Lo trovo che però è un po' retro rispetto all'attualità del fenomeno virale, su quale io mi interrogo. Io la mettevo più su un piano di cambiamento dei parametri di valutazione di quello che è un atto d'amore o di passione rapace. Il fatto che ci sia una grande euforia attorno al fatto che due si facciano gioco del cornuto, che è una questione da prosciad, da commedia, dell'arte, è sempre esistito un cornuto alle spalle dei quali qualcuno si faccia gioco, oggi è diventata una sorta di fenomeno di banale condivisione, e ha avuto un successo che non ha precedenti. L'ultimo apparizione di Berlusconi da Fazio non avrebbe avuto mai possibilità di avere una tale fortuna rispetto al video. Hai fatto un video bravo, e su questo magari io mi interrogherei. A tra un istante, dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Sta facendo un video bravo, un video oh. Tu secondo me, quando l'hai conosciuto, l'hai vista e detto: questo c'ha la faccia del cornuto. E ti sei fidanzata con lui, ne sono convinto. Ne sono convinto. 800240024. Il tema di oggi è: stai facendo un video? Bravo, con l'H in fondo, che come vedete è diventato il testo anche di varie canzoni, di varie letture. È mai possibile, immaginabile, ci saremmo mai posti noi questo tipo di problema, che delle frasi dette tra i denti tra i denti, non certo per tutti e due. Comunque, dette così, in un momento di passione, di trasporto, in un'automobile trasformata in alcova in cui si consumava un atto amoroso tra una ragazza fidanzata e uno sconsiderato amante che la filmava e la tirava a dire sul fidanzato cornuto, diventassero testo di una canzone. Qualcuno l'ha messa in musica e è diventata una canzone. Ci stiamo chiedendo questa mattina, creando un grande disagio in molti ascoltatori, ma molti hanno capito quello l'operazione stiamo cercando di fare, qual è la mutazione, il segno della mutazione che ha permesso o permette il fatto che questo video sia diventato virale. In rete galleggia quintali di pornografia, quindi non è l'aspetto pornografico, l'aspetto se c'è qualcosa, c'è una chiave di lettura che vorrei capire questa mattina. Vediamo se Patrizio riesce a aiutarmi. Buongiorno Patrizio. Ciao Nicoletti, bravissimo. Senti, è un canovaccio mediterraneo. Sono passati 7 secoli da quando il Boccaccio, di una novella della settima giornata, la seconda novella, non dico il che cosa succede perché vi tolgo il piacere della lettura. Vabbè, sono spoiler, uno spoiler dopo qualche dopo mezzo millennio. È cambiato più soltanto anche il meccanismo di comunicazione, quindi il piacere è lì. E l'intrigo del tragitto. Qual è la novella? Qual è la novella? La novella è della settima giornata, è la numero alla seconda. Il titolo? La settima giornata, non mi ricordo, il titolo no, mi chiedi troppo. Non è Andreuccio da Perugia, che mi tocca molto. No. È la settima giornata, dove parla di tutte donne alle quali piace tradire l'amante. E la seconda, chi è che la non leggere piace? Anche te che ti piace, ma non si svolge in un'automobile, l'amplesso si svolge fuori da un tino dove non vi dico la trama perché sennò vi tolgo il piacere della lettura. Comunque la storia è questa: il canovaccio mediterraneo che viene riproposto in maniera con standard moderni, ma una storia che è probabilmente ancora più vecchia di Boccaccio. Cioè, invece che farlo in un tino, lo fanno in un'automobile. No, lo fanno fuori da un tino dove dentro c'è il marito e sta pulendo il tino per vendere. Ah, che dice pulisci bene il marito mio fino in fondo, fino in fondo. Io sono qua a fare, è molto bella. Che lei ogni tanto fa, dice dai, pulisci bene, spingi di più. Lei parla con l'amante, il marito pensa. Esatto. E l'amante doveva comprare questo tino, però dice un po' sporco. Doveva comprare questo tino perché inizialmente, siccome l'amante arriva, il marito arriva in casa, l'amante in casa, la donna lo nasconde nel tino. Dice, volevo comprarlo. Fuori, dice, chi era? Era uno che voleva comprare questo tino, però non lo compra perché è sporco. Il marito, vado io, lo pulisco. L'amante, il marito lo pulisce, mentre lei finisce la... Lei prona sul bordo del tino, dice, spingi meglio. Pulisci meglio, è deliziosa. Ha ragione, è una chiave boccaccesca. Per i tuoi lettori. Ma abbiamo già detto come va a finire, però abbiamo dato lo spoiler, però non ce ne vorrà Boccaccio. Paolo, buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletti, buongiorno. La sua chiave? La mia chiave di lettura sta nella amatorialità, vera o finta che sia, quindi costruita o veritiera che sia, di questo video. Il successo secondo me è dovuto proprio alla amatorialità. C'è talmente tanta finzione a livello pornografico che io penso che gli utilizzatori finali del porno siano ormai saturi, siano... Quindi lei ne vede che ancora esiste qualcosa, smuove il fatto che si assista ad atti intimi che sembrano rubati, anche se qua di rubato c'è poco, che c'è una consapevolezza totale, cioè l'intervento della camera, un antropologo lo direbbe, che diciamo in qualche maniera modifica il set di ciò che sta accadendo. Fiorenzo, eccomi. Il suo punto di vista. Ma io credo che non sia un problema di educazione di oggi o di ieri, è proprio le generazioni che sono cambiate dal 60 in poi, non ci si capisce più niente perché sono saltate le regole, la televisione è sboccacciata, non c'è più rispetto nelle scuole, non c'è più rispetto da nessuna parte. Se io quando ero ragazzino mi chiamava una persona anziana e mi diceva guarda regà, vieni un po' qua, vammi un po' più le sigarette, io con molto rispetto prendevo la vieni a prendere. Adesso se dice un ragazzo, un bambino di una certa 10-12 anni, vieni un po' per piacere, questo ragazzo dice oh, che sono il servo tuo, ti rispondono tutti male. Però Fiorenzo, stai dicendo un po' al contrario, l'ascoltatore di prima ci citava una novella scritta più o meno a metà del 1300, che più o meno usa lo stesso schema, dice in fondo nulla cambia, cambia la maniera di esprimersi, la maniera di raccontarsi. Questi ragazzi secondo lei sono particolarmente maleducati, quindi fanno questo per maleducazione. Non penso sia la maleducazione tanto, è l'uso diverso che si fa dei metodi di diffusione. Boccaccio riprende delle novelle che si raccontano delle persone per scampare alla peste, che hanno esattamente quelle che oggi sono le facezze da social network. La rilettura contemporanea che le novelle, nella peste che ci circonda e da cui tutti pensiamo che non ci salveremo, vengono lasciate in un social network e diventano: hai fatto il video, bravo.